Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti. Questo disco è lastigoso, ma non fa più lo scontroso. Sto programma e sto cammino lo conduce Gigi D'Agostino. E sì, Andrea, volevo mandare un saluto a tutti i damarri di Condove. La disco music mi è piaciuta fin dall'inizio. Ci si è lamentati del suo ritmo costante e identico, ed è esattamente ciò che si è già detto a proposito di Little Richards e Fats. Domino. John Lennon. Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Ho la pota. La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza. Chi penetra il senso della musica potrà liberarsi da tutte le miserie in cui si trascinano gli altri uomini. Ludwig van Beethoven. Non ti ascolto più perché non avete letto il mio SMS. Ah, e cazzim. Mario, ti amo. Da Euri. È al cammino del Gigi D'Agostino. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Questo sabato, 25 novembre 2006, Gigi D'Agostino suona in Liguria. Discoteca Disco Disco. Vado Ligure. Savona. Gigi, sono Giamba. Ciao. Sabato saremo al Disco Disco lì da te. Bravi, bravi, bravi. Ci vediamo lì. Dai un po'. Cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Se cambia la musica, cambieranno anche le istituzioni più importanti. Platone. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O, mica pistacchi, stighecchi. Un giorno, quando l'ira e il dolore saranno svaniti. L'ira tutto attaccato? L'ira come? Un giorno, quando l'ira e il dolore saranno svaniti, verrò a riprenderti, Stella. Ma adesso no. Adesso non è ancora il momento. Perdonami. Andrea 14. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica bendetta. Per Nives di Torino, Topolina, ti amo da impazzire. Sei un sogno che si realizza. Fulvio da Torino. Ascoltare la musica di Mozart significa sentire che è stata compiuta una buona azione. È difficile dire con precisione dove sia questa buona influenza, ma indubbiamente essa è benefica. Quanto più vivo e meglio la conosco, tanto più amo la musica. Tchaikovsky. La vita è più bella quando suona la campanella. Ti ho visto per la prima volta il 14 agosto alla Siesta. Per favore, suonami Ginnastica Mentale. Sì. Mari 90 dalla Sardegna. Volevo dedicare Ginnastica Mentale a una persona speciale. Te voglio bene, zio. Da Giacomo di Milano. Hai capito? Il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Deborah da Grosseto. Mi fai ascoltare Ginnastica Mentale? Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica Mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Oh, oh, sono visto luce. Gigi D'Agostino. Vabbè, gietto. Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento. E suona come ti detta il tuo animo. Charlie Parker. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Oggi compio 20 anni. Mi chiamo Sheila. Sono di Arluno. Volevo chiederti se potevi come regalo dedicarmi tutta la puntata del cammino. Mi piace moltissimo. E come no, Gigi, auguri. Ciao Gigi, sono Andrea di Ostia. Potresti dire tu alla mia ex moglie che è una polla? L'amore, quando lo si trova, bisogna tenerselo stretto. Sbagliare è umano, ma perseverare è da stupidi. L'ho perdonata troppe volte. Mi dispiace, Micia. Addio. E fai bene, fratello. 12 note in ogni ottava e la varietà del ritmo mi offrono delle opportunità che tutto il genio umano non esaurirà mai. Igor Stravinsky. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. Potete dire quello che volete a chi volete. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Vai col disco. Bye.

Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Questo sabato, 25 novembre 2006, Gigi D'Agostino suona in Liguria. Discoteca Disco Disco, Vado Ligure, Savona. E ci troviamo lì sabato notte, eh? Non giochiamo. D'Agostino, reparto pelle d'oca. Per il cammino di Gigi D'Agostino devono avere il mittente, il destinatario e il tuo pensierino. Quindi attenzione, non sbagliare l'operazione. E come disse Amleto, formula la dedica in modo completo. Capito come? D'Agostino. La musica vendetta. Sono Matteo. Volevo dedicare la canzone del sogno a Viviana e dirle che ci tengo tantissimo a lei e che lei per me è un sogno, come tutte le giornate e le serate che passiamo insieme. E io da questo sogno non voglio più svegliarmi. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato. Per il maestro Gigi D'Agostino, sei l'unico sogno che non chiede mai di dormire, ma deve essere vissuto. Lorena da Martirano. Il tuo sogno è il tuo destino, il cammino di Gigi D'Agostino. La speranza ha due bellissime figlie, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Pablo Neruda. Il cammino di Gigi D'Agostino. A attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Excuse me, Mr. DJ. I love music. Ci sentiamo domani, grazie a tutti.